programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Se qualche problema che riguarda me, ditelo, non l'ho sentito. Ma quale sarà il problema? Insomma, sarebbe forse ingiusto e ingeneroso concentrarlo tutto su una persona. I problemi sono tanti, diciamolo. E pensate, il problema mio ogni sabato, con tutto quello che succede una settimana, di cercare di sintetizzare, di articolare anche dentro il mio cervello tutte queste cose, tutte queste notizie, tutti questi fatti che avvengono, e cercare di dargli un'interpretazione col vostro contributo, naturalmente, ascoltatrici e ascoltatori qui presenti ogni sabato dalle 14 fino alle 15, e con ogni volta un opinionista estemporaneo diverso. Dicevo, veramente le questioni sul tavolo, anche solo per la, diciamo, solo per la questione dell'impasse politica, che è un po' anche il grosso problema del nostro paese, no? Un declino generale, non solo politico, economico, sociale, cioè proprio di una classe dirigente. Comunque, insomma, la situazione è quella che ormai tutti sentite da più settimane, dopo averla sentita da mesi e poi per anni. Diciamo, questa è soltanto la strozzatura dell'imbuto, ma la situazione, come immaginate, come ormai è risaputo, deriva, diciamo, da origini piuttosto lontane. Comunque, vediamo un po' come anche questo sabato raccogliere insieme le idee. Voi lo sapete che avete sempre un numero verde a vostra disposizione, che è l'800 24 00 24, numero verde. Quindi cosa significa quando si dice numero verde? Un numero gratuito ma anche ecologico. Questa è la prima trasmissione ad avere un numero anche ecologico, perché così evitate di convogliare, di disperdere le vostre idee, i vostri pensieri, il vostro tempo, le vostre energie nell'ambiente e altrove, invece di convogliarle qui, convogliate direttamente qua. Ah, non ci sono più le mezze stagioni. I temi sono moltissimi. Come sempre, io cerco così un certo sforzo, come si può dire, titanico di sintesi, di raccontarvi giusto le cose principali. Poi voi affrontate quello che ritenete opportuno. La notizia di ieri sera, quasi di ieri notte, dei 4 giornalisti italiani rapiti in Siria. Sembra che stiano bene nelle mani di questi ribelli in Siria, però per il momento è stato chiesto il silenzio stampa e quindi ci silenziamo. Poi la politica. Tutto questo guazzabuglio con i 10 saggi voluti da il presidente Napolitano, per vedere, insomma, se riescono a elaborare dei punti programmatici utili per mettere insieme i vari partiti e riuscire a formare un governo. Poi anche non solo Bersani, che dice che i grillini sono in frigorifero e lui è anche un pochino congelato in questo momento, no? Che aspetta, dice, boh, mi ridaranno il mandato o non mi ridaranno. Intanto c'è questa battaglia all'interno del PD tra Bersani e Renzi, che potrebbe rischiare di spaccare il PD. Cerchiamo anche di capire qual è la situazione di questo partito in uno stato di estrema agitazione. Poi c'è la battaglia delle battaglie, che è quella per il Quirinale, in cui è anche molto coinvolto Berlusconi. Ecco, anche questa notizia di ieri, ha detto a un certo punto lui voleva tornare alle urne, perché ha visto che col PD, con Bersani, non c'è nulla da fare. Lui continua a chiedere, dai, facciamo un governo insieme, vediamo un po' come ci si può arrivare a un accordo. Allora, vedendo che Bersani invece non ne voleva sapere, a un certo punto ha detto, va bene, si torna alle urne, perché dai sondaggi ho visto che io vincerei. Secondo voi, tra l'altro, vincerebbe Berlusconi se tornasse in questo momento al voto? 800 24 00 24. Ma vi dicevo, notizia di ieri, a un certo punto ha detto, va bene, non si capisce quale strategia ci sia, ha detto, no, non le urne, non ho fretta, vediamo un po' che cosa si può fare, vediamo effettivamente cosa si può. Intanto si è fatta una cosa che era stata rimandata, poi sembrava che dovessimo pagarla noi contribuenti, il debito della pubblica amministrazione alle imprese. È stato sventato questo tentativo, meno male, ce la siamo scampata proprio per un pelo. Comunque il decreto è passato oggi, che sblocca questi pagamenti. Il Consiglio dei Ministri l'ha approvato, 40 miliardi da dare alle imprese. Sappiamo che anche l'anniversario del terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009, vi ricorda 309 morti, ieri c'è stata una fiaccolata per la città che ha ricordato ancora in quanta disperazione stanno gli abitanti dell'Aquila per i ritardi della ricostruzione, perché anche la ripartenza sociale non decolla. Poi c'è stato il caso Aldrovandi, ragazzo che è stato picchiato a morte nel 2008 da 4 poliziotti, che poi sono stati condannati in sentenza definitiva a 3 anni e 6 mesi, poi si fanno esclusivamente 6 mesi perché i 3 anni sono condonati dal condono. Il PD a Bologna voleva dare la cittadinanza onoraria alla madre, ma Lega e PDL si sono opposti. La Corea del Nord, con il dittatore della Corea del Nord, quanto si andava annoiano questi dittatori, a un certo punto dico, insomma, facciamo esplodere almeno una bomba atomica, no? E poi bisogna vedere che fine fanno loro. E, di nuovo la legge 40 è stata bocciata per la 18ª volta dal Tribunale di Milano, che lo riporta alla Consulta per chiedergli, ma insomma, lì dove si vieta la fecondazione eterologa non è un grave abuso nei confronti di chi desidera tanto farsi una famiglia? Poi, lo sapete, ci sono stati i funerali di Iannacci e di Califano. Direi per il momento di avervi infarinato sufficientemente, adesso pensateci voi a intervenire su queste notizie, 800 24 00 24 e come sempre naturalmente vi racconto anche perché effettivamente anche questa settimana si dimostra che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Quanta battaglia, quanta denigrazione nei confronti dei cicciottelli, in particolare degli obesi, no? Una battaglia quasi mondiale, ma soprattutto in un paese come gli Stati Uniti, dove ce ne sono veramente tanti, di sovrabbondanti, diciamo, no? Sempre peste e corna, poi vogliono mettere tasse, così li spingono in qualche modo a avere un'alimentazione più corretta, a dimagrire, che non è solo quello il problema. Invece c'è qualcosa che li riscatta. Li riscatta una ricerca che è stata fatta dalla New York University sui tanti incidenti stradali che occorrono ai pedoni, che hanno questa mania a New York. Voi se girate per New York ve ne rendete conto, e tutti che guardano il cellulare, guardano qualcos'altro, eccetera, sbattono a volte contro i pali e soprattutto vengono falciati dalle macchine. Ecco, questa ricerca dimostra che essere sovrappeso in questi casi può rivelarsi un utile alleato. Sono stati analizzati i casi di 1400 pedoni vittime di incidenti stradali tra 2008 e 2011 e dimostra che avere una massa corporea, diciamo, un po' più abbondante può diminuire i danni conseguenti all'impatto. Un po' un airbag naturale, costituzionale. Bene, per una volta, insomma, diciamo che un minimo di plauso anche per chi ha un po' di carne in più. È il momento, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, adesso di presentarvi l'opinionista estemporaneo di oggi. Filippo Ceccarelli. Buongiorno. Buongiorno Filippo, sei bello sveglio oggi? Altro che. Altro che, si dice così Filippo, partiamo in quarta. Filippo Ceccarelli, giornalista di Repubblica, per tanti anni alla Stampa, scrittore, ha scritto un libro che ho qui e c'è anche il suo ritratto, tra l'altro sulla copertina di questo libro vedo un bel gufo con gli occhi spalancati, come un gufo tra le rovine. Immagino che tra le rovine del paese il gufo sarai tu, caro Filippo. Ma ci torniamo tra pochissimo sul libro, caro Filippo. Tu sai che prima voglio affrontare i temi di grande attualità, di stringente attualità e anche di una certa gravità. Tu sai che finora si è sempre detto piove governo ladro, no? Ti risulta questa cosa, Filippo? Da tua memoria d'uomo, diciamo. Ecco, adesso invece anche qui cambiano, non ci sono più le mezze stagioni. Perché? Perché adesso si dice piove o non piove, meteorologi sabotatori, boicottatori. C'è proprio una vera guerra in atto da parte della Riviera Riminese, ma in particolare dal governatore, il presidente della regione Veneto, Zaia, che ha detto: oscuriamo i siti internet dei meteorologi, ci hanno provocato un sacco di danni per Pasqua e Pasquetta, dando previsioni, alcune sbagliate, alcune di pioggia, comunque tanti hanno disdetto, e quindi adesso ha chiesto di oscurare, dice prima vogliamo danni e poi oscuriamo i siti internet dei meteorologi, perché se sbagliano ci fanno danno, se dicono che piove ci fanno danno comunque, quindi... Che ne pensi di questa battaglia politica di rottamare i meteorologi e i loro siti? Penso che è un'altra prova della fragilità e della debolezza della politica e quindi dell'indebolimento delle autorità, nel senso che con questa affermazione o con questa proposta, che non accadrà naturalmente, non verrà oscurato alcun sito, non verrà oscurata, chiusa alcuna agenzia di meteorologi, eccetera. In realtà i politici che la propongono, la lanciano e la diffondono non si rendono conto che testimoniano la loro impotenza, la loro subordinazione rispetto all'opinione, rispetto a un mondo diciamo di specialismi e di specialisti in cui se esistono queste cose, se esistono queste previsioni, queste fotografie di quello che può accadere, di quello che accade, continueranno ad esistere, quindi la politica dovrebbe stare fuori, dovrebbe mantenersi ma poi anche un minimo di decoro, insomma, come si può pensare di, diciamo, di andare a proporre misure così drastiche per sono dall'idea appunto di annunci per dimostrare la propria esistenza. Ora, chi è vivo veramente non ha bisogno di dire io sono vivo, ecco, è questo quello che penso. E a volte quando ti cade la pioggia addosso ti accorgi anche di più che sei vivo, diciamo, no? A volte e può pazienza, succedere. Pazienza, piove, diciamo, sono i mesi proprio quelli delle piogge. Ora, quest'anno è andata pure peggio, è andata, io mi sono un po' stufata, diciamo, non per colpa dei meteorologi, bene, per colpa però del poi cielo. Sarà più bello quando si verrà il sole, ecco, diciamo, la vita è fatta di queste cose. È fatta così, quando c'è tanta attesa di qualcosa che tanto si vuole, poi insomma sembra anche più bello, dura anche meno. Non parliamo di sabato del villaggio oggi, sempre naturalmente sabato. Dicevo, tra tutta questa impasse politica, naturalmente c'è anche Grillo, lo sai, lo sapete, che questa settimana ha radunato i suoi in un agriturismo mangiando funghi porcini e guanciale e dicendo cerchiamo di compattarci. Qualcosa sta succedendo anche. Intanto, innanzitutto, ricordiamoci sempre che grazie al Movimento 5 Stelle effettivamente qualcuno sta cercando, sta fingendo di cercare di darsi da fare con i tagli ai costi della politica, con parlando di argomenti di cui finora non si era, anzi si era parlato tante volte ma mai si erano attuati, quindi un merito senz'altro come premessa va dato al Movimento 5 Stelle, no? Di creare un po' di fuggi, di paura, di corriamo ai ripari, vediamo un po' cosa si può fare. Però in questo momento, anche se danno idea di compattezza Filippo Ceccarelli, no? I cosiddetti grillini, dico così in apparenza, però sembra invece che ci siano delle spaccature. C'è qualcuno che dice che si è un po' stancato di stare al balcone, dice noi siamo finiti in Parlamento, ma per fare cosa? Dobbiamo stare immobili. Che dici? Sì, anche, diciamo, anche il fatto, al di là della posizione politica che questi dovranno prima o poi assumere in forme propositive, non solo distruttive o provocatorie. Anche questa leadership esterna al Parlamento, che si copre il volto, che comunica solo attraverso alias elettronici, post, immagini di video, che ecco, ieri io ho l'impressione che Grillo, che la notizia politica, se diciamo, pur rimanendo un'espressione un po' povera, insomma, questa della notizia il giorno dopo, ormai il giorno d'oggi è una cosa abbastanza così. Comunque il fatto politico reale è che questo Grillo è dovuto venire almeno a farsi vedere dal vivo da questi 100 e oltre parlamentari che lui praticamente io credo che non conosca, alcuni di, cioè la maggior parte, forse più di tre quarti, lui non li ha mai incontrati, non hanno mai visto, non sono mai visti dal vero. Allora ecco, l'idea di gestire una forza politica che è un terzo del del Parlamento senza mai farsi vedere, senza mai, ecco, questo è quello che è successo. Per una volta loro lo hanno visto, avranno parlato, avranno detto facciamo così, no, facciamo cos'ha, insomma, però di fatto la pretesa di teleguidare poteva durare appunto un mese, poi basta, poi dopo questi dovranno in qualche maniera trovare delle forme anche per di intervento, di pratica che politica, che la volontà si trasmetta, ecco. Però prima vorrei parlare e cominciare a parlare con voi al numero verde 800 24 00 24, sentirei Angelo da Venezia. Ciao Roberta. Ciao, ben trovata. Grazie, bellissima voce. Se lo dici tu mi fido. Prego Angelo. Devi fidarti. Ascolta Roberta, io, siccome ho un incipiente Alzheimer, no, probabilmente, possibile. Mi scrivo tutto, Allora ti leggo quello che mi sono scritto, sì. Una piccola riflessioncina. Tieni presente che io non ho televisione da 15 anni e passa. Viene l'uveite con la televisione, viene l'uveite, Paolo, cerca di ascoltare sempre Radio 24, in particolar modo non ci sono più le mezze stagioni. Tutti i sabati. Se sono qua con è te. È chiaro, è pleonastico dirtelo. Guarda, allora ho visto la lunga fila di macchine di cronisti che inseguivano i pullman del Movimento 5 Stelle, no? E mi sono scritto questo, la poesia, che spettacolo penoso, una lunga fila d'auto di cronisti all'inseguimento degli autobus grillini per strappare una battuta, una foto, per farne un servizio e guadagnarsi la pagnotta. sapendo a priori che non riusciranno a cavarne granché, perché per quello c'è il blog, c'è, no? Per sapere dove vanno questi. Non c'è qua la rima baciata, però, vabbè, comunque poesia lo stesso, poesia contemporanea. Volevo baciare, non vuole baciare nessuno. Bacerei te, bacerei. Grazie Angelo, ti abbraccio. Ascolta, sì. Ascolta Roberta, finisco. Sì, da qualche dettaglio che avranno carpito così, no? Poi faranno supposizioni, ne faranno lunghi articoli decisivi tra virgolette per le sorti dell'Italia, ci saranno opinionisti scatenati, non se ne abbia l'opinionista tuo ospite, no? Poi i miei sono particolari, speciali, sì. A me pare, ascolta, sì, è più una canea latrante, mi ha fatto pensare a una canea latrante, tutta sta fila d'auto di cronisti, che i famosi watchdog che i giornalisti dovrebbero essere, cioè quelli che raccontano davvero una foto delle nostre realtà, non solo quella che vedono dai loro uffici. A me questo, Roberta, non sembra dovere o diritto di informazione, a me sembra una gran voglia di gossip, di perpetuare il parlottio del pollaio italiano. Guarda, mi fa cadere le braccia. No, raccogliamole subito, Angelo, che ti servono, e mi sembra che tu sia anche mente, diciamo, bella attenta, altro che Alzheimer. Ti ringrazio molto, Angelo. Che pensi, Filippo Ceccarelli? Effettivamente è un po' buffa, no? Questa rincorsa continua, come fosse, non so, neanche a Hollywood si fa così con Tom Cruise, George Clooney o Angelina Jolie, diciamo, no? Nel senso, più sfuggono, è come in amore, più uno sfugge, più lo insegui. Ti sembra anche con Grillo si faccia così? Sì, è così, è così, è così, però devo anche dire onestamente che in Italia da qualche anno è tutto molto buffo, nel senso che gli spettacoli che la politica e che più in generale la vita pubblica trasmette sono spettacoli per lo più buffi, diciamo, stiamo in quello che è il nostro genere di riferimento nazionale, che è la commedia, e a volte si scade verso la farsa, dico questo in maniera anche ragionata, nel senso che è un tema che mi prende molto e per cui io in qualche maniera debbo anche essere grato al Torpedone, Grillino in gita per la campagna romana e alle macchine dei cronisti, perché è da scrivere? Perché mettono legna al fuoco che secondo me sta un po' bruciando l'Italia, che è appunto questo degli spettacoli grotteschi a cui noi ormai però in qualche maniera riusciamo ancora a non abituarci. E faccio presente, tanto per, diciamo, così per svagare solo un secondo, che noi abbiamo avuto proprio nella stessa settimana, l'hai accennato te nell'esordio, il fatto che una commissione di saggi o facilitatori nominata dal Presidente della Repubblica in un momento drammatico della nostra vita, in un passaggio molto delicato, ha rischiato di essere fatta fuori da uno scherzo, da un imitatore, da un'imitazione, da qualche cosa che diciamo entra anch'esso, perché lo scambio delle persone, quindi quello che fingeva di essere Margherita Hack e il saggio che un po' per vanità, un po' per ingenuità gli ha parlato dicendogli praticamente delle cose che poi dopo sono diventate contundenti, eccetera eccetera, è nei meccanismi, lo scambio di persone è nei meccanismi classici della commedia, quindi noi viviamo di spettacoli grotteschi, per cui a questo punto io non riesco tanto a riprovarli, nel senso che ne sento in qualche maniera l'ineluttabilità proprio per come noi italiani diventati. Per come siamo. E quindi non riesco a indignarmi o a scandalizzarmi. Grillo, il fatto che i destini di questo paese siano in qualche misura nelle mani di un personaggio che viene dal mondo dello spettacolo comico, mi pare diciamo più che rappresentativo di quello che succede, per cui non è tanto importante quello che si sono detti nell'agriturismo o l'inseguimento, è importante il fatto in sé, ecco, è una presa d'atto, poi questo porta sgomento, risate e anche tragedia, ma diciamo l'essenza della vita nazionale, secondo me, sta proprio nel tragicomico. E infatti anche del tuo libro, caro Filippo, dici che alla fine non sai più che cosa sia questo Come un gufo tra le rovine. Dici, non so se un diario, un lunario, uno zibaldone per conto terzi, una collezione di brandelli, uno spezzatino, un fritto misto, vai sull'aspetto culinario, una macedonia, una rimasticatura di bocconi, una risciacquatura di piatti, un cassetto pieno di straci. Che roba è sto libro? Insomma, dicelo tu in due parole. È uno spurgo di fognature. Oh mamma mia, perché, mi sembra sia un odore un po' strano. Diciamo, non è che... non accadano cose anche riprovevoli e anche ripugnanti. E questo è che io nel corso della mia giornata, da anni e anni e anni, oltre a ritagliare giornali, e lo faccio in maniera quasi maniacale, maniaco, da collezionista, eccetera, e, faccio delle piccole notarelle su quello che leggo costituendo materiale immenso, e lì fior da fiore ho cercato di dividere tutte queste cose che giorno per giorno avevo messo da parte secondo, diciamo, dei percorsi che secondo me indicano la realtà italiana quale essa è. E, c'è un capitolo iniziale abbastanza impressionante, perché il libro poi esce a gennaio, prima delle elezioni, in cui si chiama è dedicato ai presagi. Cioè lì si avverte attraverso fatti minimi che non hanno avuto nessuna rilievo. Quindi sei un po' veggente, perché adesso rileggendolo uno può capire che già a gennaio tu avevi capito un po' come andavano le cose. In cui si dà è come la percezione non compiuta, ma insomma sotto forma appunto di presentimento, di uno smottamento di cui noi non avvertiamo ancora la portata. Senti, prima che smottiamo completamente, Filippo, c'è Enzo da Roma, perché a Benedetta Acri, alle telefonate lì stanno arrivando centinaia e centinaia di telefonate, tra cui quella di Enzo da Roma. Enzo, buongiorno a voi. Buongiorno Enzo. Buongiorno. Dunque, nonostante i nostri politici, il PIL italiano è intorno ai 2.400 miliardi, perché 2.000 regolare, 2.100 e 300 sono al nero. Bene, questo significa che per ogni famiglia media italiana di 4 persone ci dovrebbero essere 200.000 euro all'anno disponibili. Disponibili. Ora, che in un paese in cui c'è una ricchezza tale, ci debbano essere persone, e tante, che soffrono addirittura la fame. 4 milioni di poveri, l'ultimo dato, se non sbaglio, di veri poveri. E sono di più, anche perché il confine fra povertà e meno povertà è molto labile, sì. Ecco, allora, che sta succedendo in Italia? La distribuzione della ricchezza attraverso poi le tasse, tutti i macelli che stanno facendo con l'IMU e compagnia cantando, porta la gente ad avere estremo bisogno di qualcuno che viene coagulato intorno a Grillo, che in effetti, essendo un comico satiro, la satira politica, lui è nato così, no? Non ha fatto altro che crescere ed evolversi. E io penso che sia un bene che sia uscito Grillo, perché veramente la gente non ne può più. Dove ci si gira e si volta in Italia, esclusi quei, che ne so, 2.000, 10.000, 100.000 persone che detengono ricchezze immense, se no in giro c'è molta sofferenza. Ora di qui non ne usciamo, soprattutto se Bersani continua nell'atteggiamento veramente devastante di non far fare un governo, qualsiasi esso sia. E poi Enzo, su questa cosa ci andiamo, diciamo, un po' chiaramente il nucleo di questo momento, di questo periodo, anche di questa puntata oggi. Però prima mi dice Fabio Cantatore, la parte tecnica, che è riuscito a creare il collegamento interplanetario, quindi possiamo partire. Sapete che è l'unica trasmissione al mondo questa che si collega anche con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Scrutando come sempre col telescopio da quassù, da Marte, lo stivaletto italico, una certezza, almeno una, in un globo terracqueo senza più certezze, una certezza, dicevo, è apparsa, almeno quella lampante. In Italia le sagge non esistono. Esistono semmai le segge, ma di sagge nemmeno l'ombra. Non è chiaro se siano estinte come i dinosauri e il dodo del Mauritius, o se non siano mai esistite nel corso della storia umana, o se negli scorsi giorni fossero partite tutte in gruppo per un congresso di sagge, per l'appunto, in un luogo esotico. Fatto sta che non sono pervenute. Qualcuno ha anche ipotizzato che le sagge sono troppo sagge per occuparsi di cose inutili, come del resto uno stesso saggio ha ammesso. Vi è però in una penisola italica che naviga svista in cerca di un iceberg come pezzo d'appoggio, vi è però, dicevo, un'altra certezza, a dire il vero. Qualcuno, forse per la crisi, non è chiaro se economica o politica o tutte e due, non andrà al mare. Sentite. Io ci sono, l'ho detto, non vado al mare. Non si può infatti perdere tempo trastullandosi con gli ombrelloni, che tanto piove sempre, o in Parlamento. Anche Matteo dice che non se ne può più di perdere tempo né al mare né in città. Poi chi di tempo non ne ha perso di certo, mettendo da parte gruzzoli imponenti per portarli nei paradisi fiscali, pensando, metti che poi il paradiso ultraterreno non c'è, assicuriamocelo almeno qui. Si tratta di un club piuttosto esclusivo, oltre che evasivo, il club planetario degli evasori, per l'appunto, che ha sottratto alle dichiarazioni patrimoniali la ricchezza praticamente equiparabile a quella di Stati Uniti e Giappone insieme. Ci sono in questo club esclusivo evasivo anche 200 italiani. Ma niente paura, il fisco italico ha in genere una straordinaria capacità di compensazione e di riequilibrio. Quello che non pagano i disonesti lo fa pagare per intero agli onesti. Così si risolve il problema, via. Che di problemi già ce ne sono tanti. Proprio in questi giorni, nella classifica mondiale delle città più trafficate, la quinta al mondo, ancora prima di Los Angeles, è risultata, sentite un po', Palermo. Altro che mafia, che ormai più o meno equamente distribuita in buona parte della penisola. Sulle piaghe palermitane aveva ragione lo zio di Johnny Stecchino. È nella tezza, è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci fa nemici, famiglia contro famiglia. E proseguiamo naturalmente sempre qui con le vostre notizie, con le notizie della settimana, le vostre libere opinioni al numero verde 800 24 00 24. Qui Roberta Giordano sempre con voi il sabato dalle 14 alle 15. Opinionista estemporaneo di oggi è Filippo Ceccarelli, giornalista di Repubblica, col suo ultimo libro Come un gufo tra le rovine. Il numero verde, vi dicevo, è sempre 800 24 00 24. Pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, anche per i vostri commenti. Ecco, avevo annunciato a proposito di finanziamento pubblico ai partiti, poi leggerò anche le vostre opinioni su Facebook. Filippo Ceccarelli, sinteticamente, che idea hai sul finanziamento pubblico ai partiti? Va eliminato, va ridotto, reso più trasparente, finanziamenti privati, che bisogna fare? Basta. Più sintetico di così. Estremamente sintetico. Mi pare che siamo arrivati a questo. Guarda, allora ti leggerò brevemente, perché sono tantissimi, e poi anche su altri argomenti, i commenti di facebookiane e facebookiani. Dunque, Giovanni dice, eliminato per sempre. Vinci scrive, bisogna eliminare tutto. Sabrina, noi l'avevamo già eliminato da anni, vi ricordate col referendum. Giulio, all'americana bisogna fare un contributo minimo che viene annullato nel momento in cui i contributi da privati superano quel valore. Massimo, secondo me sarebbe il caso di istituire un minimo vuol dire per sopravvivere, di finanziamento pubblico che possa consentire la base per poter esprimere le idee di un qualsiasi partito, e poi tutto un cofinanziamento privato ma in chiaro e deducibile. Beniamino scrive, un tetto massimo trattenuto nelle casse dello Stato Stato liquidabile unicamente alla presentazione delle fatture. Laura scrive: finanziamento pubblico solo ai bilanci virtuosi. Isabella: va eliminato, se non fosse chiaro. Daniele: fin tanto che nella politica italiana esiste un miliardario è necessario il finanziamento, ma il rimborso elettorale deve basarsi sulle reali spese sostenute e certificate e non in base ai voti ottenuti. Poi Fabio fa una lunga argomentazione un po' complessa e articolata, così Alessandro e Alberto sintetizzo. Luigi dice: il finanziamento pubblico deve esistere per evitare che le campagne elettorali se le possano permettere solo i ricchi, ma ci vuole un tetto che deve essere molto limitato. Ecco, io personalmente sarei più d'accordo con Luigi e con le altre ascoltatrici e ascoltatori che parlano di un finanziamento minimo di base e poi tutto naturalmente assolutamente trasparente, con bilanci chiari, anche perché anch'io ho un po' il timore, non ho un'idea precisissima su questo argomento, ma ritengo che ci possa essere effettivamente il rischio che poi la politica la possano fare soltanto i ricconi, i miliardari, no? In Gran Bretagna, per esempio, sì. Dimmi Filippo. Però no, voglio dire, sulla base di quello che è stato postato, credevo peggio, no, effettivamente mi pare che gli ascoltatori sono ragionevoli, io ho detto basta e lo penso, perché a me piace la seconda che è stata detta, cioè effettivamente nel 93 fu abrogato il referendum, sì. E loro fecero una furbata prima con le tasse, fecero un 8 per 1000, una strana cosa eccetera. Poi da finanziamento si è chiamato rimborso elettorale. Sì, appunto, fecero i furbi e questo basterebbe secondo me per penalizzarli per un po'. Devono in qualche maniera meritarselo, questa è la sensazione. Però invece tra gli ascoltatori è prevalente quasi la posizione di chi dice però l'idea che poi solo i ricchi eccetera, non è che in realtà lo farebbero, i ricchi continuerebbero probabilmente a farlo e gli altri avvantaggiati no, rispetto agli altri, sì, sempre avvantaggiati, no, comunque in tante cose come è accaduto. Quindi in più l'aspetto diciamo anche un po' delle mani lunghe, del fatto che poi rubano io ricordo che si diceva il finanziamento serve perché altrimenti rubano, qui rubano e poi c'è pure il finanziamento, quindi sono temi complessi. L'impressione è che serva una qualche forma di purificazione, proprio di moralizzazione, con degli esempi, con dei simboli, e che quindi la spallata debba essere data in quel senso là, se si vuole salvare il sistema. Non voglio più neanche dire dei partiti, perché in realtà questi che ci stanno adesso sono aggregati molto molto poco solidi ai miei occhi. Prima parlavamo del Partito Democratico, ma sui giornali di questa settimana sono giorni che si parla della possibile scissione. Infatti adesso ne parliamo, Filippo, teniamocelo in caldo, ma sentiamo un attimo le molte ascoltatrici e ascoltatori che ci sono al numero verde 800 24 00 24, e poi torniamo subito su questo argomento. Benedetto, anzi Paolo c'era prima da Vicenza, scusami Paolo, tanta pazienza hai avuto, prego. Pronto? Sì, Paolo, ci sei. Sì, salve. No, io volevo parlare un attimo del caso Aldrovandi. Sì. Perché sono rimasto veramente prima scioccato dalla manifestazione davanti lì al comune di Ferrara, che è stato qualcosa... Di un sindacato della polizia, sì, che difende, sì, i quattro che hanno massacrato che comunque è stato, diciamo, anche considerato una cosa negativa sia da altri sindacati di polizia... Sì, è vero. Che dal ministro degli interni, cancelliere, che da più o meno tutte le forze politiche, giusto? Sì, mi sembra che tutti abbiano detto, ma non è il caso di fare... Tranne qualcuno, mi sembra un po' a posteriori un certo Giovanardi, se non sbaglio, no? Sì. Che non è la prima volta che lui, quando ci sono questi casi, vedi Cucchi, Uva, eccetera, è sempre dalla parte, comunque non si sa com'è, in maniera proprio quasi ortodossa, dalla parte delle forze dell'ordine. In questo caso mi sembra che la cosa sia talmente palese e che anche la pena combinata a questi agenti di polizia non sia insomma un qualcosa di clamoroso, perché se un normale cittadino ammazza qualcuno comunque prende un qualcosa in più di 3, 7, 4, non si capisce quanti siano, perché poi ci saranno i vari gradi eccetera. Io non riesco a capire com'è possibile che un parlamentare possa abusare del dolore di una madre, perché alla fine questa madre ha perso il figlio, ha fatto una battaglia infinita per riuscire a avere un po' di giustizia e adesso bisogna ancora buttarli, cioè mi sembra veramente di sparare sulla Croce Rossa un po', perché il dolore poi dopo non si cancella. Certamente questo, no. Questo giovane di 18 anni sarà stato anche alterato da tutto quello che possono fare i giovani sabato sera in discoteca, quant'altro. Ma il giudice parla di un semplice calcio a vuoto che avrebbe tirato e loro che avrebbero agito come schegge impazzite, questo nella sentenza poi sì, in Cassazione. Sì, probabilmente magari anche certe volte le parole possono essere più taglienti. Sì. Magari delle offese fisiche, no? Quindi chissà cosa può aver detto, però si sa, quando si vede uno alterato, secondo me un poliziotto saggio con il sorriso sulla bocca lo immobilizza, lo porta anche in questura, gli dà una lavata di capo e gli fa fare quello che deve suggerire un ragazzino, cioè renditi conto che non va bene se fai così, ma non arrivare a estremi conseguenze e anche forse immotivate, sproporzionate rispetto a quello che poteva aver fatto lui, visto che erano di sì, dalla sentenza. Tra l'altro Paolo, la madre, dice di essere stata vittima, lei, il processo tutto quanto, di tanti tanti depistaggi in questi anni, no? Dice, però, se certo, no sarebbe stato un omicidio volontario. Abbastanza il caso, e non colposo. Questa specie di appendice così, quasi in chiave politichese di Giovanardi, veramente mi ha... E questa cosa poi adesso che non gli danno la cittadinanza a Bologna, ma stiamo scherzando, ma veramente, chi è? Sono sempre, diciamo, quella sponda di che nonostante tutto, nonostante le dichiarazioni che hanno fatto del momento di convenienza per dire no, non insensate le manifestazioni, adesso però in alla giunta comunale di Bologna niente cittadinanza. Poi si vedrà, forse ancora lì la proposta è sospesa. Paolo, ti ringrazio moltissimo e ti auguro buon viaggio, sento che stai guidando in sottofondo. Benedetto da Ferrara, sempre all'800240024. Benedetto. Salve, buongiorno. No, volevo commentare sul finanziamento pubblico. Però devi spegnere la radio, abbi pazienza, mi hai detto che c'è tutto un riverbero. Sì. Sul finanziamento pubblico ai partiti, cioè, a parte che già è stato abolito dai cittadini, e l'abbiamo detto, sì, i partiti politici comunque hanno continuato, anzi hanno a nutrirsi avidamente, sì, hanno anche aumentato questi finanziamenti. Sì, certo. Poi dopo una notizia come quella di ieri, che il PD ha un capitale di 1 miliardo di euro e 3 persone si ammazzano perché comunque guadagnavano poco più di 500 euro al mese, ma di fronte a queste notizie qui, cioè, gli italiani, anche il suo ospite di Repubblica, ma queste notizie qui i cittadini le sanno? O quanto gli arrivano queste notizie qui? Perché poi dopo bisogna ragionare su quelle cose. Se poi i cittadini sono mal informati su queste cose, poi è ovvio che quando si va di fronte alle urne, insomma, comunque Benedetto, che i partiti siano gonfi di denaro, questo lo abbiamo capito, no? Questo è il grosso scandalo, la casta, se ne sta parlando negli ultimi anni. Poi bisogna capire che cosa di concreto effettivamente poi si riuscirà a fare. Il Movimento 5 Stelle, diciamo, come avevo premesso prima, il merito l'ha avuto almeno di spaventare su questo argomento. Poi vediamo, qualche tagliuzzo si sta facendo e poi vedremo come prosegue. E c'è Lino da Torino? Buon pomeriggio, buongiorno. Buongiorno a te, Lino. Vorrei fare un piccolo indovinello. È difficile, è difficile. Aspetta che mi stringo le cuffie alle orecchie. Dimmi. Vista la situazione economica in cui siamo, sì? Non ci sono i soldi per ricostruire l'Aquila, non ci sono i soldi per il terremoto in Emilia, non ci sono i soldi per gli esodati. Io abito in Piemonte e qui ospedali pubblici e scuole stanno chiudendo come le ciliegie per mancanza di fondi. L'assessore regionale dei trasporti ha detto che sono finiti i fondi, da giugno il servizio ferroviario pubblico diventerà un terzo e lo stesso per il trasporto tramite autobus, quindi quello che usano i pendolari, gli studenti, i lavoratori. Quindi il mio indovinello è il seguente: a fronte di questa situazione, perché spendere 20 o 30 miliardi di euro per il treno alta velocità per impiegare un'ora in meno da Torino a Parigi? Ma quante persone conoscete voi che vanno da Torino a Parigi? E quante persone sono interessate ad andarci più in fretta di un'ora rispetto a come si va adesso? Questo è il mio piccolo indovinello. Piccolo indovinello, diciamo, una domanda che rimane sospesa e angosciosa nell'etere. Ti ringrazio, Lino. Adesso, in questi pochi secondi che mancano alla viabilità, prima di andare sul discorso Bersani-Renzi, Filippo Ceccarelli, in un telegramma, che pensi della TAV? Non ho un'idea. Non hai un'idea? Non lo so. Non ho idea. Penso che l'idea di andare io poi essendo di Roma vedo che te Parigi, porta, dice te. Sempre no, vedo Parigi sempre abbastanza lontana, ecco. Quindi se un'ora in più, un'ora in meno, sarei dell'idea di evitare. Non vorrei che ci scappasse l'incidente grosso, ecco. Se il problema comincia a diventare di ordine pubblico, allora ecco, non è questo il momento. Tra l'altro ordine pubblico, ma anche veramente tanti miliardi, Filippo, nel senso, dicono ormai li abbiamo già messi in parte, stanno iniziando lavori, rischieremmo delle penali, delle cose, però insomma ragioniamoci molto bene su questo argomento. Lino aveva ragione, con tutti i soldi che ci mancano, andare a spendere i miliardi in questa grande opera. Filippo, Renzi è stato definito, ti dico due definizioni di questi giorni, dalla Bernini del PDL, Anna Maria Bernini, senatrice del PDL, dice è il volto democratico della sinistra. Gasparri ha detto un piacione di nuova generazione che cerca di mettere insieme un po' tutti. Lui dice Renzi si sta perdendo tempo, continua a premere su Bersani, ma non si è capito alla fine se lui che vuole un'alleanza a questo punto col PDL per dire facciamo presto, facciamo qualcosa, basta che facciamo un governo, poi invece ieri ha detto no, è Bersani che sta cercando l'inciuccio. In ogni caso ti chiedo, come ho chiesto alle ascoltatrici e agli ascoltatori sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, ci sono stati tanti interventi. Renzi dice ci vuole dignità, Bersani si è fatto umiliare da Grillo, ora patto col PDL o urne. Secondo te, Filippo, è più, diciamo tra virgolette, umiliante rincorrere Grillo da parte di Bersani o accettare di allearsi con l'avversario di sempre Berlusconi? Tutte e due cose alternative, mortificanti, secondo me. Non solo, ma ho come la sensazione che sia Renzi che Bersani farebbero esattamente la stessa cosa, che significa farle tutte e due. Ecco, voi dovete perdonare, te devi perdonare un po' questo disincanto che a volte sfocia nello scetticismo, però la vita politica e nel caso specifico direi più che altro la lotta per il potere necessita di sguardi necessariamente disincantati, per cui davanti alla sfera di cristallo io penso che questo sia il momento di Renzi, per cui Renzi ce la farà senz'altro. Sono vere tutte e due le cose, che piaccia o no, senso che dicevi all'inizio, che diceva la Bernini, che è il volto nuovo e democratico eccetera, che è pure un piacione, come diceva quell'altro che mi pare che fosse Gasparri. Sono vere tutte e due le cose, i politici di oggi sono delle maschere, queste maschere ogni tanto loro cercano di correggersi, se le mettono, se le rimettono, le cambiano, hanno consiglieri che gli dicono di fare una cosa e dei consiglieri che gli dicono, magari sono anche gli stessi, di fare l'opposto. Più in generale sul conflitto che sta scoppiando, sta divampando tra Renzi e Bersani, io penso che la lotta per il potere in Italia, per come almeno io sono abituato a conoscerla, ha perso la sua antica nobiltà ideale, ma anche senza essere diciamo nostalgici o babbioni, si tratta, abbiamo dinanzi a noi ambizioni molto molto personali e non proprio diciamo collettive. C'è il tuo cane che è contrario, mi sembra, quello che stai dicendo, Filippo. Si chiama Pepito. Pepito. Io soprannome Pepita, tra l'altro. Al rapporto tra i due Renzi. Sì, mi sembra di aver capito che lui dice basta, non se ne può più. Allora, senti, andiamo al nostro piccolo appuntamento che abbiamo adesso, che ritorna naturalmente in grande sfoggio. Eccolo qua. Il nostro Don Severino, illuminaci tu tutta questa confusione, caro Don Severino, di Potenza. Saluto tutti. Allora, io dico semplicemente questo, che il problema di tutti i problemi che state affrontando è che noi siamo in Italia. Il problema è l'Italia e gli italiani. E il problema è anche spegnere la radio, però, Don, scusa, mentre mi... Allora, spegniamo perché... Sì. Allora, il problema è appunto questo. E oggi ci sono due anniversari. Il primo è il terremoto di L'Aquila. Qualcuno aveva promesso miracoli, non ci sono stati, gli italiani hanno creduto. Il secondo è quello di Aldobrandi, che nemmeno i più squallidi mafiosi si sono comportati nei confronti di una madre che ha esposto una foto dicendo che l'aveva tarruccata. Ripeto, siamo in Italia. In un altro paese Renzi, Grillo e Berlusconi non avrebbero esistenza. Questo è il punto. O cambiano gli italiani oppure rimaniamo così. Grazie Don Severino. E questa è la conclusione di Don Severino. E adesso invece ritorniamo ad analizzare la parola della settimana con la nostra Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, alla quale sottoporrei senza dubbio il termine saggio. Non ti dico saggia perché pare che non esista nel vocabolario italiano e anche nella configurazione antropologica, sociologica italiana. Quindi parliamo di saggio al maschile, Valeria. Sì, parliamo di saggio al maschile, ma può esistere naturalmente una donna saggia, come no, certamente. Ma, e anche che non ce n'era. Nei vocabolari è contemplato, per è contemplato, solo nei vocabolari forse. In tutti i vocabolari, perché per convenzione aggettivi e sostantivi sono dati al maschile, ma è un'antica convenzione, ma non entriamo in vicenda. Lo sai quale... che poi ne parliamo prima o poi, va bene. Ne parliamo prima o poi. Andiamo sul saggio. In realtà la parola saggio ha più significati. Il significato oggi di grande attualità naturalmente è quella di esperto al di sopra delle parti, scelto per dare un parere, per dare consigli. In questo caso la parola deriva dall'antico francese sage, che a sua volta derivava dal latino parlato sapium. Ma c'è un'altra parola che è sempre saggio, ma in questo caso è un sostantivo, anche nell'altro caso, ma l'altro caso poteva essere usato anche come aggettivo. L'altra parola significa invece prova, esperimento, campione di qualche cosa, e da qui si è passati al significato di prova, cioè prova nella quale si mostrano agli altri le proprie capacità. In questo caso invece tutto deriva dal latino exagium, che voleva dire peso, bilancia. Beh, come concludere? Con un gioco di parole, mi scuso, fin troppo facile. Bisogna che in questa occasione i saggi diano saggio di saggezza. Ecco, e qui mi fermo. Saggia conclusione, grazie Valeria Della Valle. Ciao Valeria. Filippo, saggiamente, che cosa bisogna decidere adesso per il Quirinale? Sempre Gasparri. Allora, intanto hai sentito che diverse esponenti donne del PDL hanno parlato di Emma Bonino. In primis la Carfagna, che ha detto una grande personalità di fama nazionale e internazionale, per me sarebbe una garanzia. Così anche Stefania Prestigiacomo, dicendo insomma che ha fatto grandi battaglie civili. Mentre gli uomini, Brunetta in testa, ma anche Gasparri, subito le hanno frenate. Ha detto, state zitti su questo argomento, è un argomento delicato. Gasparri ha detto no, la Bonino no, perché su alcune idee che riguardano eutanasia, aborto, siamo all'opposto. E lui per esempio fra i vari metterebbe prima Berlusconi, poi Gianni Letta, poi Marcello Pera, ma dice se proprio anche Massimo D'Alema. Io mi chiedo, Massimo D'Alema, per la sua storia personale, per la sua collocazione e configurazione, pare a Gasparri che possa avere idee diverse su aborto, su testamento biologico eccetera, perché la Bonino no e D'Alema sì? Ma infatti. Una domanda ingenua? Dimmi tu. Ma no, è una più che una domanda, è una risposta di buon senso, certo. Sai, questi ormai non dicono mai le cose per come sono, ma per l'effetto che loro pensano che possano avere. Allora, faticoso però, È faticosissimo, ma infatti sono ben stressati. Ma dire, è faticoso anche per noi che dobbiamo fresca, sempre. Insomma. Ma anche faticoso per noi che dobbiamo fare gli esegeti, gli interpreti, no? Capire cosa c'è. Vabbè, a noi ci danno da lavorare. Stipendio, sì. Insomma, e quindi c'è di peggio, ecco. Però è una classe politica estenuata che manca di quella cosa che secondo me poi in realtà l'elettorato sente al momento del voto, che è la autenticità, per cui effettivamente frasi come queste uno dice beh vabbè, ma insomma che senso hanno? No, penso che la Bonino andrebbe bene, penso che andrebbe bene anche perché non ha un partito alle spalle, che quindi in qualche maniera spaventa meno, per esempio Prodi, che invece è un candidato forte e che è piaciuto momento. anche Grillo l'ha menzionato e poi li fa votare i suoi su sì, blog, poi anche lì voglio dire sì, anche lì non è neanche Grillo poi così lineare nei suoi comportamenti. Per curiosità, proprio quando ho visto che Grillo sarebbe d'accordo a Prodi, sono andato a vedermi una volta che nel 2006 Prodi lo ricevette a Palazzo Chigi e Grillo andò lì a portargli non so quale petizione, una lettera, un milione di firme, non ricordo, ma insomma. E Grillo disse delle cose abbastanza sconvenienti di Prodi, cioè ridisse una cosa che lui dice sempre, cioè che mentre lui parlava aveva avuto la sensazione che Prodi si fosse addormentato. Ma perché allora, il Movimento 5 Stelle ha sempre la sensazione che si addormentino dall'altra parte? Esatto, vede il sonno, sono artifici retorici, polemici direi nel caso specifico. Senti Filippo Ceccarelli, mentre pare che stiamo per chiudere, ma ti volevo dire, intanto su Facebook continua a imperversare Emma Bonino, diversi hanno citato anche Prodi, ma continuano da giorni i facebookiani, non ci sono più le mezze stagioni, a votare per la Bonino. Vedremo se è la volta buona, ma intanto ti chiedo proprio in chiusura, è stata osservata dallo strumento Alpha Magnetic Spectrometer nel cosmo una grande quantità di materia antimateria mai osservata prima, può essere che l'antimateria quindi colpisca anche la nostra penisola e questa mancanza quindi di sostanza sia dovuta anche all'antimateria? Mentre chiudiamo? Ma guarda, può essere, diciamo, speriamo che abbia un valore positivo questo aspetto. Staremo qua a vedere. Grazie a Filippo Ceccarelli, grazie a voi. Potete risentire la trasmissione sul sito di Radio 24, sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Da Roberta Giordano, Serenio Orizzonti, a tutti.